24 mattino. Alle 8:16 minuti, eccoci qua, belli pimpanti, come sempre, per parlare di economia. Soldi e dintorni. Felice di metterti così di buon umore di prima mattina. Chi è che parla? No, non ho capito fronte. Sul belli pimpanti Deborah Rosciani, no, ha iniziato infatti, a ridere come non mai. Non capivo se ti riferissi a me come bella o come pimpante. O tutto insieme. No, ti accoglie sempre con una decina di sbadigli alle 8:10, tra l'altro, quando tutti siamo svegli dalle 5:30. Ma pure io stamattina te l'ho anche raccontato. Va bene. Eccolo. Allora, oggi parliamo veramente di un'odissea che purtroppo molti viaggiatori e come ti ho raccontato ieri a pranzo ha colpito anche me. Va bene, andiamo anche a pranzo insieme, diciamo. L'odissea dei bagagli smarriti in aeroporto, quando si parte per la vacanza e il bagaglio non ci segue nella destinazione che abbiamo prescelto, o al contrario rientriamo dalle vacanze e il bagaglio non ritorna a casa con noi. E allora questo rientro vacanziero è stato particolarmente problematico per qualche turista, tra l'altro non solo per i bagagli persi, ci sono anche altre situazioni ancora in ballo. C'è il gruppo di turisti fermi a Sharm el Sheikh perché la compagnia Livingston non li fa rientrare. C'è il caso di un altro vettore low cost, Sky Europe, che ha soppresso ieri all'aeroporto di Fiumicino un volo per Bratislava con 102 passeggeri che sono rimasti a terra e non sanno quando potranno ripartire. Altri 130 italiani sono bloccati per lo stesso motivo all'aeroporto di Bratislava e a loro volta non sanno quando e come potranno rientrare. Questa compagnia sta fallendo, avrebbe sospeso numerosi voli anche in altri scali europei, non avrebbe più il denaro per fare il pieno di carburante ai propri aerei. Ma noi soprattutto oggi ricordiamo il sabato nero di tutti coloro che sono incappati nei disagi che hanno colpito l'aeroporto romano di Fiumicino a causa del ritardo della consegna bagagli, una situazione di disagio che ha coinvolto persino il sindaco di Roma Alemanno, ma ieri anche l'assessore alla cultura di Roma Umberto Croppi, che ha sperimentato il caos in aeroporto, solo che il suo bagaglio non è arrivato con ritardo, non è proprio mai arrivato. E allora, dicevamo prima, per fortuna che per qualcuno si tratta del viaggio di ritorno a casa, perché capita che il bagaglio parta con noi in vacanza ma non arrivi alla destinazione che abbiamo prescelto e questo ovviamente che cosa fa? Rovina la nostra vacanza, subiamo un danno oltre che economico anche emotivo. Come e quando possiamo farci risarcire? Dopo averlo disturbato prima di partire per le vacanze, lo ridisturbiamo di nuovo per farci dare qualche suggerimento del caso. Buongiorno e grazie di essere a Soldi e Dintorni all'avvocato Vittorio Bonaguidi, avvocato di Telefono Blu. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Vostri centralini credo che siano stati particolarmente in fibrillazione nelle ultime settimane, per esempio per il disagio di Fiumicino, in quanti vi hanno chiamato? E quest'anno c'è stato sicuramente un aumento dalla direzione di Bologna, ci sono arrivate segnalazioni di oltre, io credo quasi siamo a 7.000 chiamate, c'è un aumento del 10% sostanzialmente rispetto all'anno scorso e ci sono delle casistiche veramente in grande aumento. Ecco. Quali sono i disagi che vi hanno particolarmente denunciato? Ma i disagi vanno dal semplice ritardo, che non bisogna dimenticare, anche questo è un disagio notevole per il turista, disagio sul ritardo che ovviamente si intende nell'ottica non della mezz'ora di attesa ma ben più, quindi oltre l'ora senz'altro, e poi sicuramente lo smarrimento totale, che ha una buona percentuale, e sicuramente anche lo smarrimento, definiamolo parziale, con un ritrovo della valigia qualche giorno dopo il rientro addirittura totale dal viaggio, e quindi questo con tutta una serie di problematiche che ben possiamo immaginare. Infatti, come è capitato alla persona che ha viaggiato con me per la mia vacanza, la cui valigia è arrivata, me la sono proprio tirata addosso, avvocato, parlandone con lei prima di partire per le mie vacanze, la persona che viaggiava con me è arrivata a metà vacanza, e questo ha comportato ovviamente, per quanto se la possa prendere con filosofia una situazione del genere, perché ovviamente nessuno di noi vuole rovinare le meritate ferie dopo un anno di lavoro, però è chiaro che tutti i nostri beni chissà dove sono finiti, e questo ci mette sicuramente di cattivo umore, anche se possiamo approfittarne per fare un po' di shopping nella città che abbiamo scelto per le nostre vacanze. Detto questo, dicevamo, se anche per il ritardo si può cercare di far domanda per ottenere un risarcimento, andiamo però al caso dello smarrimento vero e proprio. Una volta che si arriva a destinazione e il bagaglio non arriva con noi, quali sono i passi da compiere? Peraltro, tra i consigli che dà Telefono Blu, ho letto un vostro comunicato stampa, ce ne sono alcuni anche molto divertenti. Riprendere l'attività di lavoro con calma e serenità, dite voi, pensare al prossimo weekend, però andiamo intanto a chi ci si deve rivolgere quando non troviamo il bagaglio in aeroporto. Primo passo da compiere, avvocato. Sì. Allora, direttamente, allora, intanto cominciamo a dire che i soggetti responsabili sono comunque le compagnie aeree, quindi i vettori aerei, che patiscono a volte anche per una responsabilità non diretta, diciamo, la situazione che si è creata di disagio nell'aeroporto, anche perché l'attività di diciamo, gestione del bagaglio viene effettuata dalla società anche di handling, cosiddette di handling, che sono società che collaborano con i vettori aerei. Comunque il soggetto primo responsabile è il vettore aereo. In aeroporto bisogna recarsi all'ufficio che oramai credo è famoso ed è molto conosciuto, che si chiama Lost and Found. Bisogna compilare dei moduli, bisogna esibire la copia del biglietto aereo, lo scontrino del bagaglio e compilare un modulo apposito che ci viene consegnato, fornendo tutta la dettagliata descrizione del bagaglio, naturalmente, e possibilmente, ma forse non in quel momento, anche il dettaglio del contenuto. Esattamente, esattamente. Ecco, qui c'è subito da dire una cosa, che diciamo, il diritto al risarcimento in termini quantitativi arriva ai cosiddetti 1000 diritti speciali di prelievo, dice questo la Convenzione di Montreal del 99, che è la normativa del settore, però quindi circa 1000 rotti euro, però queste somme spesso non sono adeguate al reale danno al contenuto. Certo, 1100 euro, avvocato Bonaguidi, per passeggero, per bagaglio. Per bagaglio, sì. Ovviamente questo vale in caso di ritardo, distruzione, perdita o anche danno semplice sul bagaglio. Mi risulta che però ciò non toglie che, per esempio, si possano prevedere anche indennizzi superiori, come ha stabilito di recente un giudice di pace. Allora, qui il problema è che si estende anche poi ai danni da vacanza rovinata. Senza voler deviare dal tema di oggi, diciamo che la Cassazione tende oggi a ridurre lo spazio e il margine sui danni non patrimoniali da vacanza rovinata, quindi questa tendenza si estenderà sicuramente anche al problema del danno da bagaglio smarrito. È evidente che però i giudici di primo grado spesso, come questo giudice di pace che ha stabilito a luglio, sostanzialmente per una famiglia di tre persone che si recava da Catania a Dublino e che aveva smarrito il bagaglio e l'ha ritrovato solamente cinque giorni, una settimana circa dal rientro della vacanza, quindi le è stato impedito l'utilizzo degli accessori da viaggio durante tutto il viaggio, ha stabilito un risarcimento e del danno patrimoniale di circa 160 euro documentate a testa, oltre 400 euro di danno non patrimoniale per ogni passeggero. Mm-hmm. Quindi questo sicuramente è un importante precedente. Mm. Sì, precedente almeno dei giudici di primo grado che comunque non rinunciano a riconoscere anche in questi casi il danno cosiddetto morale. Avvocato, se il bagaglio smarrito può essere che venga ritrovato e ci venga riconsegnato più o meno a metà percorso della vacanza, comunque a vacanza già iniziata. Se il bagaglio invece non arriva mai, quanto tempo abbiamo per chiedere risarcimento alla compagnia? Ma quali allora, sì, dunque, intanto il bagaglio si intende smarrito se non viene ritrovato entro 21 giorni dal rientro del viaggio, quindi si intende proprio smarrito. Diciamo che quindi noi entro i soliti 7 giorni abbiamo il tempo, anzi 10, scusate, 10 giorni abbiamo tempo per chiedere il risarcimento del danno, quindi scrivere alla compagnia aerea. E entro quanto poi la compagnia dovrebbe teoricamente risarcirci? Ci sono dei termini ben precisi. Diciamo che ogni compagnia fa. Non è che non sia chiara, non è prevista, nel senso la compagnia ci può anche teoricamente non rispondere mai. Siamo noi che sostanzialmente in tempi ragionevoli, se non ci viene data una risposta in una quindicina di giorni, dobbiamo cercare di rivolgerci associazioni di consumatori, infatti, o professionisti, o agire noi stessi andando avanti con le nostre pretese. Con le azioni, un'azione legale, anche se fosse necessario, se magari il contenuto della valigia è particolarmente di valore. Allora, io, visto che lei ha suggerito anche di rivolgersi alle associazioni dei consumatori, visto che ci sono, do il vostro numero, che è l'199 44 3378, quello di Telefono Blu, per raccogliere appunto le denunce dei passeggeri che sono incappati in questi giorni in queste disavventure, perdite di bagagli e dintorni. Avvocato Bonaguidi, grazie per essere stato con noi questa mattina, le auguro buona giornata. Grazie a voi, buona a presto giornata. Alessandro. E allora, Deborah, nel rinnovarci domani c'è Salva Danaio. Sì, si ritorna a scuola. Quanto costa alle famiglie italiane tra libri e corredo scolastico? Ah, un classico di questo periodo, del rientro della scuola. Alle 8.32 minuti, eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, le notizie in primo piano sono queste. Passa all'offensiva il direttore di Avvenire Dino Boff, oggi in tre pagine scrive la sua verità sull'informativa anonima pubblicata dal giornale che lo accusa di molestie e di aver avuto una relazione omosessuale. Intanto il procuratore di Terni dice: nel fascicolo non c'è alcuna informativa sulle inclinazioni sessuali di Boff. L'Unione Europea ha chiesto informazione a Italia e Malta sul respingimento del gommone con 75 migranti avvenuto nei giorni scorsi. Replica il ministro Maroni: la richiesta di chiarimenti è prassi normale. La situazione è sotto il pieno controllo delle autorità sanitarie. Questa è la conclusione di un vertice alla Presidenza del Consiglio sull'influenza A. L'anno scolastico inizierà regolarmente, ribadisce il governo. Infine, per il calcio, oggi dovrebbe esserci la rottura tra la Roma e il tecnico Luciano Spalletti dopo le due sconfitte dell'esordio di campionato. È già pronto come sostituto Massimo Ranieri. Questa è le 8.33 minuti, dunque, come anticipato, in principio fu la INSE. Ricordate la protesta quest'estate di alcuni operai dell'azienda di fronte al rischio fallimento. Hanno inscenato questa protesta, anche spettacolare nei modi, certamente, giorni su una gru ad altezza abbastanza elevata per attirare l'attenzione dei mezzi di informazione. L'ha definita tra l'altro la notizia più bella dell'estate il ministro dell'economia Giulio Tremonti al recente meeting di Rimini. Insomma, lavoratori, ha detto, che senza bloccare nulla ma con una protesta anche eclatante, appunto, hanno contribuito a salvare l'azienda e il proprio posto di lavoro. Solo che, come era prevedibile, l'effetto emulazione si è propagato. I vigilantes sul Colosseo a Roma, poi quattro lavoratori del termovalorizzatore di Acerra che dovevano protestare sono saliti sul Maschio Angioino a Napoli. C'è un operaio del gruppo Fiat che è in sciopero della fame, Guido Barbieri, da qualche giorno. Ci sono due assistenti di laboratorio a Palermo che mi risultano in sciopero della fame. Andremo avanti ad oltranza per la scuola. Poi le proteste continue e si annunciano anche in questi giorni anche abbastanza eclatanti. Insomma, ma tutte queste proteste fanno bene, fanno male, sono giuste, sono sbagliate? Perché questo tipo di proteste anche spettacolari? Roberto Giudici, buongiorno. Giudici? Sì, eccoci. Sì, buongiorno. Lei è stato 8 giorni, 7 notti con i 4 operai della INSE lassù. Sì. Perché bisogna arrivare a tanto? Sono giuste e sbagliate? Tremonti ha detto che è la più bella storia dell'estate, la sorpresa. No, mi duole il fatto di doverla correggere immediatamente, sì, nel senso che infatti bisogna far chiarezza sulle forme di lotta, perché è importante. La nostra iniziativa di andare sulla gru non è stata assolutamente dettata dal fatto di richiamare l'attenzione, è stato un fatto molto pensato, studiato, non era sicuramente un fatto di disperazione. La questione era molto chiara e semplice: dopo 14 mesi di presidio giorno e notte davanti ai cancelli dell'INSE, noi dovevamo in un qualche modo bloccare lo smontaggio dei macchinari che stava avvenendo in azienda. Di fronte a questo tipo di... dato che noi, l'obiettivo della nostra lotta è sempre stato quello della ripresa produttiva dell'azienda, sì, questo è stato l'obiettivo chiaro dal primo giorno, la nostra forma di lotta dal primo giorno, 30 maggio 2008, è stata quella di rientrare in fabbrica, di essere vicino ai macchinari, perché ripresa produttiva vuol dire apertura della fabbrica e vuol dire presenza dei macchinari. Però di fatto, insomma, c'è stata questa tensione mediatica, voi lo volevate questo fare non è un per problema, un questo, no, è importante chiarire, sì, è importante chiarire perché è importante chiarire che la nostra è stata fino in fondo una battaglia sindacale, nel senso che la forma di lotta che noi abbiamo applicato non è stata, come lei ha detto, una forma di lotta per richiamare l'attenzione, è stata una forma di lotta precisa verso un obiettivo, quello di bloccare lo smontaggio dei macchinari. Bene, questo per sbloccare, finisco il ragionamento, per sbloccare i macchinari voleva dire entrare in fabbrica, quella era la forma di lotta, se avessimo potuto saremmo entrati tutti in fabbrica, il problema è che c'erano 200 poliziotti e non era possibile. Questo l'abbiamo chiarito. Detto questo, giudice, avrà visto anche lei i titoli dei giornali, Inse e Colosseo per esempio, è protesta show, faremo come la Inse, cioè voglio dire un'emulazione c'è da parte ora di molti casi che dicono beh l'hanno fatto loro, adesso attiriamo noi l'attenzione, allora lo fanno gli altri con queste proteste eclatanti. So che ci siano due questioni da chiarire, una che quando si parla di un fatto va descritto per quello che è, appunto, per cui non si può dire che la nostra iniziativa la nostra forma di lotta è stata una forma di lotta per richiamare l'attenzione. Questo è il primo dato, bisogna chiarire bene che tipo di forma di lotta, perché è stata fatta. La seconda, la questione dell'emulazione, vuol dire che esiste un problema importante in Italia, è il fatto che decine e decine di lavoratori effettivamente si trovano in una condizione di difficoltà, di disperazione che trova poche risposte, ma bisogna scindere bene le due questioni, non si possono mettere assieme come anche lei ha fatto questa mattina. Bene. Per esempio presentando il caso Inse. Va bene, se ha finito con le critiche possiamo andare avanti. Non è, anche. È no, per chiarire, perché è importante. Va bene, ha chiarito benissimo. Allora, tra l'altro con noi ci sono Luigi Angeletti, che saluto, segretario della UIL. Angeletti, buongiorno. Buongiorno. E l'onorevole Giuliano Cazzola, che è responsabile lavoro del PDL e anche vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera. Buongiorno Cazzola. Buongiorno a lei. Angeletti, la spaventano queste... Allora, abbiamo capito dalla INSE che era un'altra questione, va bene, l'ho presentata male, così siamo tutti contenti. Ma questo effetto emulazione la spaventa, queste proteste eclatanti che ci sono anche in questi giorni, la spaventa dal punto di vista sindacale, come dire, ma insomma scavalcano il sindacato, non è quella la forma di lotta sindacale? Beh, spaventare è un verbo eccessivo, diciamo così, che purtroppo non si può che essere un po' preoccupati dell'effetto emulazione che i media sicuramente inducono nella necessità di richiamare l'attenzione sul proprio problema, ed è questa la vera questione. Ora, come giustamente veniva prima ricordato e come purtroppo è la realtà, ci sono molte situazioni nelle quali ci sono persone che rischiano di perdere il posto di lavoro e certe volte oltre che rischio l'hanno letteralmente perso, e quindi pensano che la strada più semplice, più veloce, più efficace per risolvere il loro problema è richiamare l'attenzione, farlo conoscere. Se una questione viene conosciuta, soprattutto se viene molto conosciuta, se è molto diffusa, c'è l'attenzione di coloro che si presume abbiano il potere di risolvere questo problema. In primo luogo la politica. La politica è sensibile a ciò che scrivono i giornali, che dicono la televisione, quindi se c'è un caso che va sui giornali è implacabile che l'uomo politico, dal ministro piuttosto che il sindaco, il presidente della regione, cioè colui che magari può, deve intervenire, e se interviene risolve il problema. Questo è il ragionamento che si fa. È preoccupante per tutti però. È preoccupante per i sindacati perché spesso si vedono, come dire, rappresentati come quelli che non possono risolvere tutti i problemi, il che è vero, perché noi non possiamo risolvere tutti i problemi. Noi cerchiamo di risolverne il 100%, se noi risolviamo il 90% dobbiamo esserne soddisfatti. Ma è anche un problema dei media, perché ovviamente scatenando questi fenomeni e volendo o nolendo, essendo loro i veri protagonisti di questi fenomeni di rappresentazione della protesta sociale, ne rimangono essi stessi prigionieri. Poi uno si può lamentare o meno, ma questa è la realtà. Da parte dei media, tra l'altro, lo stesso Cazzola ha fatto, Cazzola la possiamo chiamare una provocazione, o meglio, provocazione rispondendo a provocazione. Quando quattro operai del termovalorizzatore di Acerra sono saliti sul maschio Angioino, lei ha detto: la verità è che qui bisognerebbe spegnere le telecamere, altrimenti rischia di diventare ingovernabile una situazione del genere. Conferma? Confermo, anche se giustamente lei l'ha definito una provocazione, perché io ho molto rispetto per le lotte operaie, ho molto rispetto per i problemi di persone che compiono questi gesti, però non c'è dubbio, e tra l'altro io faccio notare anche che, non dico che hanno seguito il mio consiglio, ma mi pare che diciamo l'insistenza mediatica che viene portata ormai su questi esempi di emulativi è molto inferiore rispetto a quella dell'INS, no? Che si è trovata tra l'altro a Ferragosto, adesso un po' al centro di tutte le notizie. E io comunque credo che ci sia una differenza fra il caso dell'INS e altri casi, perché tra l'altro il caso dell'INS arriva alla fine di 14 mesi di lotta, no? Cioè, questo vuol dire molto. Altri casi si parte così, insomma, sorge un problema e i lavoratori si arrampicano in cima a una terrazza o mettono a rischio la propria vita, insomma, quindi bisogna distinguere di casi di spettacolarizzazione, diciamo, che arrivano come estrema razio, no? alla fine di processi lunghissimi, e casi che partono così alla ricerca, diciamo, di una facile popolarità. Però vede, io ho voluto fare una provocazione invitando anche i media a gestire con prudenza casi come questi. Gli operai del Maschio Angioino sono scesi dopo una mediazione della Digos, no? Che non so che mediazione abbia fatta, perché se è vero che in autunno avremo 2000 fabbriche in crisi, io credo che il parametro non potrà essere quello di chi sale sul monumento più alto o mette più gravemente a rischio la propria vita. Insomma, bisognerà cercare di riportare una situazione sociale aspra e difficile in quelli che sono i canali che la possono gestire. Però giudici ha fatto questa critica anche alla classe politica, dice: visto che non c'è l'attenzione adeguata su questo problema, allora bisogna... La classe politica non è che può nazionalizzare le fabbriche, insomma. È un ritenere che ci siano delle scorciatoie che poi in realtà non esistono, perché la vicenda dell'INS l'ha risolto un imprenditore. Io resto di questa opinione, che più che una fabbrica ha comprato 50 bravi operai, che non è facile anche in situazioni di crisi trovare 50 bravi operai. Però ecco, certo il prefetto si è attivato, c'è stata la mediazione di un parlamentare europeo, però o si trova una soluzione reale, una soluzione concreta, altrimenti anche la classe politica può fare molto poco. Tra l'altro il giorno in cui la classe politica ci trovasse di fronte a centinaia di casi di persone che minacciano di precipitarsi sotto, potrebbe mandare solo i vigili del fuoco con i teloni. Non credo che potrebbe trovare delle soluzioni così miracolistiche e miracolose. Allora, io andiamo a dare un attimo le informazioni sul traffico, poi ovviamente continueremo a parlare di questo tema, ci collegheremo anche con Benevento, dove è in corso una protesta per quel che riguarda soprattutto la scuola. Intanto voglio tranquillizzare tutti quelli che mi hanno scritto, giustamente mi hanno pizzicato, perché non è che voglio mettere un cantante sulla panchina della Roma, non è Massimo Ranieri, ma nel caso Claudio Ranieri. Massimo Ranieri canta molto bene, ma lasciamolo lì. Quindi sarebbe Claudio Ranieri il sostituto di Spalletti. Le 8:46 minuti, allora stiamo parlando delle proteste che possono avvenire in vari modi da parte dei lavoratori, che nel timore anche di perdere il posto di lavoro a volte hanno inscenato alcune proteste richiamandosi al caso della INS, anche se Roberto Giudici ci ha spiegato che lì è nato da una genesi diversa, ma insomma richiamandosi al caso della INS, quindi a una protesta anche abbastanza abbastanza eclatante nei modi. Io a questo proposito vorrei andare a Benevento, dove mi sente Daniela Basile. Buongiorno. Buongiorno. Lei è presidente del comitato insegnanti precari Sanniti del Sannio, dunque. È da credo 3 notti, quindi anche questa notte appena trascorsa l'avete passata dove? Qui sul tetto dell'USP. Che sarebbe l'ex provveditorato di Benevento? Sì, l'ex provveditorato di Benevento. E che ci fate? Cioè, perché arrivate a passare 3 notti e chissà forse anche una quarta o una quinta sopra il tetto dell'ex provveditorato? Che cosa pensate di fare così? Allora, praticamente il problema è questo. Noi crediamo che oramai la classe politica non sia più rappresentativa, o meglio, non ascolti più le parti sociali. Sono 14 anni che ci battiamo con mobilitazioni, con mediazioni, chiediamo ai sindacati sostegno, ma le cose non cambiano. Ci propinano di continuo palliativi che non sono risolutivi, e quello che è questo problema che è davvero gravoso, perché il precario della scuola è un precario decennale, cioè praticamente il precariato della scuola è diventato un cancro all'interno dell'istruzione pubblica che non finisce mai, è inesauribile. Il precariato dovrebbe essere una forma lavorativa di passaggio. Noi facciamo tirocini, questo passaggio lo stiamo facendo da 20 anni. E questo è il problema, precariato, ma voglio dire, il cuore mi interessa del suo intervento è questo. Voi siete lì perché pensate che non serva nient'altro, non serve la politica, non serve la mediazione. La politica non ci ha ascoltato. La politica non ci ha ascoltati, i sindacati non riescono, noi dal basso abbiamo chiesto sempre di continuo interventi, richieste, dibattiti, il problema non si è risolto dal basso. Io che faccio? Vado in alto, sul punto più alto della mia città, e grido quello che è il mio problema. Io guardi, la fermerei qui e chiamerei in causa Angeletti, Cazzola e giudici, perché questa frase secondo me è emblematica. Dal basso non ci ha ascoltato, io vado nel punto più in alto della città e grido a tutti perché mi sentano, Angeletti. E questa è la frase centrale, chiaro, insomma, esatto, del discorso. Perfetto. Si vede che e che replichiamo? Che replica il segretario della UIL una frase del genere? In un modo molto semplice, che purtroppo ci sono migliaia di persone che hanno problemi analoghi o addirittura qualcuno più grave. E se facessero tutti la stessa cosa non sarebbero ascoltati, perché è impossibile rappresentarli tutti nella maniera così eclatante come ognuno di loro spera e si augura. E quindi non c'è una via spettacolare alla soluzione del problema. C'è una via spettacolare alla soluzione di un problema, di due problemi, non di migliaia. L'unica soluzione per migliaia di problemi è le mediazioni sociali, i sindacati, le parti sociali, le istituzioni, la politica, soprattutto la buona politica, che ovviamente se sa ascoltare, sa rappresentare e sa trovare una soluzione è la risposta in una società decentemente organizzata e fatta da milioni di persone. Anche perché io dico è una cosa che riguarda poche decine di persone. Anche perché io dico, appunto, Angeletti, venivo proprio a questo punto. Sì, è vero, si difende il proprio posto di lavoro, ma guardando da un altro punto di vista si può dire si difende il proprio orticello, che per carità è importante, però non si fa una lotta, diciamo, unitaria, ma una lotta magari per difendere quei 5 posti di lavoro, no, quei 10 posti di lavoro. Soprattutto il problema è molto semplice, che per quei 5 magari è tutto, ma purtroppo per gli altri migliaia non è nulla. E in una società bisogna guardare a tutti. Da Cazzola e giudici vorrei anche un parere su questo. Cazzola, allora, guardi, ha detto io vado in alto e grido a tutti, così almeno mi guardano, mi ascoltano finalmente. Sì, ma allora questo è appunto un modo di pensare che ci sia uno scorciatoio per risolvere un problema, cioè è come chi occupa le case popolari, no? Ci sono 100 case popolari a disposizione, 1000 persone magari che ambiscono ad accedervi, 100 persone prendono l'iniziativa e occupano. però insomma non è detto che siano quelle che hanno maggiori diritti o di quelle che non fanno questo, che non fanno questo passo, insomma. Quindi cosa vuole? Un po' come farsi giustizia da sé, a volte può riuscire, però ecco, non è la via, e ovviamente è un caso di ripeto, diverso dall'INSEE, anche se l'INSEE, diciamo, per tante ragioni viene citata, viene portata ad esempio, sì. Però ecco, non è un modo di poi di risolvere i problemi di tutti. Se non altro perché chi adesso... Prenda per esempio il caso di quelli che sono andati sul Colosseo. Sì. Quelli che sono andati sul Colosseo, i vigilanti, avevano un datore di lavoro che era una vecchia società di vigilanza, no? Che era di proprietà dell'Associazione Mutilati e Invalidi. Questi a un certo erano una specie di parastatali, questi a un certo punto l'associazione Mutilati Invalidi, assolutamente benemerita, non era più in condizione di tenerli, li ha ceduti a un privato, e questi ovviamente hanno detto: noi vogliamo stare con l'associazione Mutilati Invalidi e non andare a lavorare da un privato, perché indubbiamente un privato è un padrone più severo rispetto però insomma si può tanto poi che la loro cosa si è spenta, la loro cosa in pochi giorni si è spenta, perché poi non tutte le motivazioni sono altrettanto valide come quelle dell'INSEE. Sì, a questo proposito Roberto Giudici, che voglio ricordare, è un sindacalista della FIOM, che appunto ha condiviso con i quattro operai della INSEE la permanenza sul carro ponte, insomma a decine di metri dal suolo. Ecco Giudici, la questione che dice anche Cazzola è diverso il caso della INSEE, ma alla INSEE guardano quelli che stanno protestando, insomma, in questi giorni, con forme diverse, come lei ci ha detto, però il dato di fatto è che quest'autunno che cosa si prospetta secondo lei? Nuovi casi del genere, immagino. Esatto, io appunto sono un funzionario sindacale della FIOM, per cui non è che il sindacato da un'altra parte, io ero lì come FIOM, come organizzazione sindacale, per cui non è una forma di lotta estranea al sindacato. Il massimo di solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici che stanno tentando in un qualche modo di porre all'attenzione un problema. Insomma, ci rendiamo conto che tra settembre, nonostante il fatto che qualcuno dica che la crisi è superata, che ormai vediamo la luce, io penso perlomeno nella realtà metalmeccanica il periodo peggiore sarà proprio settembre, ottobre, novembre. Decine e decine, centinaia di piccole aziende chiuderanno, ci saranno migliaia e migliaia di lavoratori senza posto di lavoro, e questo è un problema. Problema è che fare per reagire, cioè lei condivide per esempio la protesta di Daniela Basile e di chi è sul tetto del provveditorato di Benevento? Io condivido fino in fondo il fatto che questa politica, questa società deve ascoltare molto di più i lavoratori, perché per altri settori sociali, per le banche si sono mossi tutti, si sono improntate strategie e così via. È da decenni che i lavoratori dicono che il potere d'acquisto è diminuito, che la divisione della ricchezza è andata in modo errato a favore non dei lavoratori ma di altri, e per cui diciamo, ora questi problemi stanno scoppiando, la crisi li ha fortemente esaltati, e per cui è chiaro che la protesta si moltiplicherà e sarà compito della politica, altrimenti non si capisce qual è il proprio ruolo, di cercare appunto di tentare di affrontare queste situazioni, ma sicuramente da tutte queste esperienze esce una voce ed è quella che va ascoltata. Io i lavoratori a questo proposito vanno ascoltati di più di quello che si è fatto fino ad oggi. Per concludere vorrei tornare proprio da Daniela Basile, quanto andrete avanti, e soprattutto che tipo di riscontro avete avuto? Cioè qualcuno vi è venuto a dire: ma che volete, vi lasciano lì? L'attenzione mediatica è scesa come ha auspicato in qualche modo Cazzola, oppure c'è? Allora, innanzitutto vorrei chiarire una cosa: noi non stiamo coltivando l'orticello di 5 persone, noi stiamo coltivando un orticello di 18.000 disoccupati in tutta Italia, sì, dipendenti di uno Stato, e quindi credo che lo Stato e il Cazzola debbano cercare di spiegarsi per quale motivo si è arrivati a tanto e cercare di porre rimedio, ma non con dei rimedi tamponi o dei palliativi, definitivamente, perché la situazione oramai non può più andare avanti così. Noi non possiamo stare alla mercé dei cambi di governo, ai cambi, alle decisioni, mettiamo il concorso, no, il concorso non va, ecco, bene. Però mi dica perché devo chiudere, che tipo di riscontro avete avuto, se tanto ne avete avuto. Solidarietà dappertutto, dal vecchietto, dal pensionato, vengono qui sotto a sostenerci, ci portano di tutto, ci stanno dal cibo alle bevande. Ho capito, ma voglio dire, ma così il problema, cioè, lo farei anch'io di portarle un caffè se lei è lì sul tetto, ma il problema, il cuore del problema si risolve? Noi speriamo di sì, speriamo che con questa nostra azione il governo decida di aprire un tavolo istituzionale e di risolvere seriamente la questione del precariato. Noi non scendiamo fino a quando il governo non aprirà un tavolo istituzionale sul precariato della scuola e trovi delle risoluzioni definitive per quello che la ringrazio. Dal Sannio, questo è il messaggio al governo, chissà se arriva al governo la voce. Grazie a Giuliano Cazzola, Luigi Angeletti della UIL, Roberto Giudici della FIOM Caso Inse e Daniela Basile. Ci sentiamo domani, Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Domani alle 7:20, minuto più minuto meno, 24 mattino, siamo qua.